vivo. Mi piace la notte, ci vivo. Con le mie sigarette e il piatto che gira, e dietro i vetri la città. Strano, il microfono è come un bambino, gli parlo e non so se dorme o mi ascolta, la luce è sciolta nel caffè, e ogni notte così questa radio è il mio mondo, quei dischi, i giornali e gli scontrini del bar. Senti, senti il telefono ancora, è la solita signora. No, ed invece sei tu, ma senti che sorpresa, due giorni e due notti per dimenticarmi, metto un disco per te, poi vattene a dormire. No scusa, aspetta, dimmi dove sei. Dietro le case si scalda, e questo momento in diretta nel vento lo voglio dedicare a te.